il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Il 1° maggio di quest'anno verrà inaugurata la grande Expo italiana, che ha un tema particolare che è molto in linea con quello che è l'argomento delle nostre trasmissioni: nutrire il pianeta. Sappiamo un po' tutti quanti che c'è questo grande evento, forse non abbiamo ancora ben capito che cosa nel concreto, come si svolgerà, però a noi interessa in particolar modo il tema, appunto, nutrire il pianeta, e vorremmo avvicinarci a questa data e poi a questa iniziativa, sperando che anche molti possano avere anche l'occasione di andarci, cercando di approfondire quelle tematiche che riguardano proprio la nutrizione, nutrire il pianeta. Vogliamo farlo incontrando degli ospiti in questi mesi, cercheremo di avere delle puntate dedicate a questo. Oggi cominciamo con Efrem Tassinato dell'Associazione Nazionale Wigwam, che proprio della sostenibilità ambientale, della nutrizione, della riscoperta anche delle cose tipiche della valorizzazione del territorio, ha fatto un po' la bandiera in questi 40 anni, credo ormai, di attività. Benvenuto Efrem. Grazie Emanuele, grazie a voi. Sì, la prima cosa che vorremmo proprio chiederti: che cos'è questo Wigwam e anche il nome, da dove viene? Io direi che forse conviene agganciarlo a Expo, perché Expo giunge proprio a proposito per dare una risposta, o perlomeno per prospettare una risposta alla crisi che noi tutti stiamo vivendo. Infatti Expo propone un modello di sviluppo più solidale e sostenibile, e questa crisi è molto differente da quelle che l'hanno preceduta, ed è una crisi non congiunturale, ma ormai è tutto chiaro che è una crisi strutturale, ovvero è entrato in crisi il modello di sviluppo. Expo 2015 tenta di proporre risposte che vadano in questa direzione, che vadano a sostanziare questa nuova domanda. Il circuito Wigwam da questo è nato. Nel 1972, nonostante il nome che ripropone la denominazione della capanna dei nativi dei Grandi Laghi canadesi come sinonimo di equilibrio di una comunità locale con il territorio che la ospita, e come sinonimo di popolazioni che vivevano con l'ambiente che le ospita o le ospitava in perfetta armonia e sintonia. È un'esperienza che nasce nel nostro paese e oggi è presente in 21 paesi a livello internazionale. Che cosa fate nel concreto? Quali sono un po' le vostre iniziative principali? Allora, la mission del circuito Wigwam, che è un circuito associativo no profit, è la promozione della cultura, la promozione attraverso azioni concrete, quindi progetti sostanzialmente, della cultura dello sviluppo equo, solidale e sostenibile. Il circuito Wigwam dà una valenza alla solidarietà molto laica, come peraltro è la sua natura, la sua ispirazione anche filosofica. E per solidarietà noi intendiamo un comportamento, quindi diciamo così una vita che sia improntata alla collaborazione piuttosto che al conflitto. Certo. E diciamo così al trovare punti di incontro piuttosto che creare divergenze, insomma. Quello che oggi è di moda dire fare rete, fare squadra, eccetera, eccetera, che poi dopo nessuno sa come favorire, sia dal punto di vista dell'istruzione, della formazione, dell'azione pratica, favorire un comportamento solidale, quindi che porta a trovare punti di incontro e quindi a pensarsi, a ripensarsi, a ripensare le proprie azioni all'interno di una squadra, piuttosto che puntare al protagonismo a tutti i costi. Se non sei genio non sei nessuno, se non sei il primo della classe non sei nessuno, eccetera eccetera. Ci dobbiamo fermare, a tra poco.

altrimenti non c'è futuro per nessuno. Cioè, questa crisi finalmente, io dico finalmente perché è salutare, ci sta mettendo di fronte ai limiti dello sviluppo, peraltro pronosticati già alla nascita di Wigwam 40 anni fa dei padri dell'ecologia moderna. Sto parlando di Barry Commoner, o se no del nostro vicino Virginio Bettini, per arrivare, per andare verso un'economia che è quella definita dell'astronave. Il nostro pianeta altro non è se non un'astronave di dimensioni enormi, comunque un'astronave, quindi con orizzonti finiti e con risorse anche finite, che può andare o verso una, come dire, un concetto di convivenza e di organizzazione sociale, quindi anche economica, basata sulla solidarietà, sull'equità, sulla solidarietà e sulla sostenibilità, oppure va verso il suicidio, certo. Ecco, quando noi parliamo della nostra agricoltura sappiamo che è in crisi ed è molto fragile, cerchiamo di parlare di prodotti tipici anche per darci un po' un tono e per così invitare anche a investire in questo settore, e anche come punto per promuovere il turismo. È una strada che ha una sua importanza oppure rimane comunque una nicchia che non ci porterà proprio così avanti rispetto a questo tema della nutrizione del pianeta? Ci sono due modelli di alimentazione, due modi, diciamo, per alimentarsi, o due modi di produrre alimentazione. Il modo delle commodity, che serve per l'alimentazione di tutti i giorni, diciamo, per il sostentamento fisico delle persone, anche psicologico se vogliamo, ma soprattutto fisico, per non farle morire di fame, tanto per capirci. E poi dopo c'è la produzione del cibo, non voglio dire di qualità, perché deve essere di qualità anche la produzione di cibo commodity, ma il cibo diciamo che soddisfa anche il bisogno immateriale connesso al cibo di cui si nutrono le persone, ovvero un contenuto culturale, quindi un cibo che sia legato al territorio, che esprima, oltre a una valenza nutrizionale, anche una valenza culturale, quindi di conoscenza del territorio da cui viene espresso. Peraltro è proprio questo il cibo che dà la possibilità di autosostenersi alle comunità locali che vivono nelle aree rurali e nelle aree montane e che sono portatrici di una tradizione alimentare che affonda le radici in secoli se non in millenni di storia, e attraverso questa capacità di produzione si ottengono due risultati. Il primo è di mantenere tradizioni, quindi una sorta di biodiversità dell'alimentazione legata alla cultura del territorio, e mantenendo la cultura del territorio si ha la possibilità anche di fare in modo che la peculiarità del prodotto che ne deriva sia inequivocabilmente salvaguardata. Giusto per intendersi, quando diciamo vino del Chianti o Lardo della Saccisica, è chiaro che può esserci qualcuno che lo copia, però il Chianti è quello e la Saccisica è questa, certo. Quindi il brand di territorio è sicuramente la migliore salvaguardia dell'unicità e della peculiarità del prodotto che si va a offrire. L'altro è l'elemento, diciamo, che arricchisce di valore aggiunto con i contenuti immateriali della cultura locale il prodotto stesso. Faccio un esempio: quando noi parliamo di riso, il riso è per antonomasia una commodity alimentare. Quando noi parliamo di riso del Delta del Po, evidentemente aggiungiamo a un elemento di commodity una peculiarità che si riferisce esattamente al riso che viene prodotto e viene ottenuto in quel territorio. Che cosa serve per salvare le produzioni tipiche dalla globalizzazione, quindi dalla spersonalizzazione e quindi dalla banalizzazione legata al solo elemento del prezzo? Bisogna fare due cose. La prima è marketing e comunicazione, quindi capire come proporre il prodotto e come comunicarlo, quindi gli attori della comunicazione sono, come dire, sono i primi in prima linea per poter comunicare la differenza tra un prodotto commodity e un prodotto che è legato a un territorio. Qui Expo ci secondo, può essere di aiuto assolutamente. Esattamente, ed Expo viene, ci capita proprio a proposito. Il secondo è come dire, la tecnologia che deve essere, come dire, continuamente affinata e migliorata. Sono reduce da un viaggio in Israele organizzato su invito del Ministero dello Sviluppo Economico, dove mi hanno mostrato come sia possibile coltivare il riso nel deserto del Negev irrigando la goccia. È una tecnologia assolutamente innovativa che dà la possibilità di raggiungere produzioni doppie rispetto a quella che è la, come dire, la norma, con costi enormemente inferiori. E producendo tra l'altro con una necessità di acqua che è veramente infinitesimale rispetto a quella all'irrigazione tradizionale. Quindi la formula è comunicazione, salvaguardia della tradizione, però che va comunicata e alla quale vanno implementate le nuove tecnologie che ormai sono disponibili praticamente a tutti. Grazie Efrem, noi purtroppo ci dobbiamo fermare qui con questa immagine del riso che cresce nel deserto che è perfetta rispetto al tema dell'Expo Nutrire il Pianeta. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana, prima ricordiamo anche se qualcuno vuole avere informazioni sul Wigwam, c'è il sito internet www.wigwam.it, ci potete riascoltare in podcast sul sito internet www.bluradioveneto.it. alla prossima settimana. Avete ascoltato Il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.